Cialtroni nello spazio, puntata numero boh, perché non abbiamo perso il conto stavolta. E insomma, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Trasmissione dedicata all'informatica libera, al software libero, la musica libera, un sacco di libertà in questa trasmissione. E oggi andremo ad occuparci di ancora altre libertà, perché ci occuperemo anche della libertà dei marchi, che sembra un po' strano, visto che è una cosa un po' protetta da copyright per eccellenza, ma ne parleremo, lo accenneremo in realtà oggi, e poi ne parleremo più nei dettagli la settimana prossima. Ciao Alessandro, benvenuto in trasmissione. Ciao a tutti. Allora, un po' di novità, parleremo nella puntata di oggi, rubo un po' il posto ad Alessandro, sento la mancanza di Marco infinitamente, però sappiamo che lui si sta sicuramente divertendo e quindi gli mandiamo un saluto, visto che sappiamo che lui ci ascolta via streaming, magari non adesso, visto che sono le 4 del mattino, però più o meno prima o poi ci ascolterà. Tra poco andremo a parlare ancora di repressione nei circuiti peer-to-peer, andremo a parlare ancora di questioni legate al trusted computing, ricorderemo anche che cos'è il trusted computer, che abbiamo fatto nelle settimane scorse, e andremo a parlare di spyware, di casini che va a fare la Microsoft che non riconosce i virus e scambia gli antivirus per virus, andremo a parlare di spiare i dipendenti e poi anche un po' di trucchetti per aggirare alcune delle tecniche di spionaggio. E poi, come annunciato, andremo a parlare del nuovo, della liberazione di Serpi Canaro. E intanto facci da compagnia sempre i Chemical Brothers remixed, così a facci da sottofondo. Continuiamo purtroppo a parlare di repressione nei confronti degli utilizzatori del peer-to-peer, ovvero tutte quelle persone che scambiano filmati e musica senza fare un danno a nessuno, se non ai profitti delle multinazionali che accusano appunto gli utilizzatori dei circuiti peer-to-peer. C'è una fondamentale differenza tra rubare una bicicletta e rubare un film, in questo caso, visto che se la rubi una bicicletta a qualcuno, non la sottrai a quel qualcuno, mentre invece copiare qualcosa di digitale non la sottrai a nessuno e la fai semplicemente circolare di più. E comunque, nonostante questa banale verità, milioni di utilizzatori tutti i giorni, innumerevoli file che venivano scambiati grazie al suo supporto, è stato chiuso un server di riferimento per la comunità di Emule e Donkey, uno dei più utilizzati tra i software peer-to-peer. Il server che è stato chiuso è Razorback. Nelle scorse ore la polizia belga ha infatti provveduto al sequestro. La notizia è apparsa ieri su alcuni forum, non tutti i particolari sono già noti. Di certo è un annuncio che scuoterà un intero ambiente, perché Razorback aveva una popolarità senza uguali per la disponibilità di indici di milioni di file. Come sempre, data un po' anche due parole su questa tecnologia, quello che viene sequestrato non era un server che conteneva di per sé i file, ma conteneva soltanto la lista dei file che circolavano su questa rete di Emule e Donkey. E di per sé, insomma, si poteva anche aspettare che Razorback venisse chiuso, però insomma si poteva aspettare anche altre mosse. In realtà le indiscrezioni parlano anche della messa in stato di fermo del amministratore di Razorback, in questo momento tra l'altro su internet, una cosa che forse potrebbe essere pericolosa per qualcuno. Stanno girando dei finti Razorback messi in online dalle forze dell'ordine per monitorare e raccogliere dati sul traffico, quindi insomma, da questo punto di vista, chi si collega con Razorback in questo momento potrebbe rischiare di essere direttamente monitorato dalle cosiddette forze dell'ordine, più che una cosa che potrebbe rivelarsi pericolosa data la legislazione italiana e anche internazionale. We'll be right back. Andiamo invece a parlare dell'anti-spyware mancato di Microsoft. Allora, vabbè, notizia pubblicata su Zeus News, comunque vabbè, abbastanza diffuso ormai nell'ambiente, soprattutto degli amministratori, perché il nuovo aggiornamento di questo tentativo di anti-spyware prodotto da Microsoft, che ormai è alla versione beta 1 dopo aver passato svariate versioni alpha 1, 2, 3, 4, in pratica è un prodotto che Microsoft spaccia da provare agli utenti, e la dimostrazione che appunto non è ancora un pacchetto efficace è proprio questo GAF che questo software fa nel riconoscere appunto Symantec Antivirus, che è un antivirus prodotto da appunto dalla Symantec, che è una grossa azienda di produzione di antivirus, e riconosce questo antivirus come uno spyware e fa tutta una serie di operazioni, compresa quella di bloccarne l'attività, e se gli utenti non sono attenti alle scritte che compaiono sul loro monitor, cancella pure l'eseguibile dell'antivirus, con conseguente poi problema di disinstallazione, eccetera eccetera. Vi dico che giusto per sistemare questo problema ci è voluto tipo un'oretta l'ultima volta che ci ho provato, perché combina parecchi pasticci, un po' per colpa della Symantec, un po' per colpa appunto dell'anti-spyware, e poi rimuovere l'antivirus è un problema. Quindi consiglio per tutti, visto che non fa parte dei software obbligatori da scaricare come aggiornamenti di sicurezza, ma è nei software opzionali, non scaricatelo, non installatelo, utilizzate anti-spyware che abbiamo segnalato anche tempo fa, che sono gratuiti, come SpyBot, che sono molto più efficaci, hanno una storia più lunga e soprattutto sono indipendenti da Microsoft. Sempre da Microsoft ci sono un po' di problemi per quanto riguarda l'uscita di Trusted Computing, perché nelle prossime versioni del sistema operativo di Redmond, ovvero Windows Vista, ci sarà un inghioso chip che si chiamerà Fritz, chiamiamolo così, a cui verrà affidata la sicurezza, la riservatezza e l'immunità dai virus. L'articolo che prendiamo sempre da Zeus News. In particolare, all'interno di questa tecnologia ci sarà BitLocker, ovvero un dispositivo per crittografare l'hard disk. E la cosa più incredibile, che lascia ancora perplesso chiunque, è che sarà un sistema a doppia chiave. La chiave di codifica super sicura sarà generata e custodita dal chip stesso, ovvero il chip Trusted Platform Module, che verrà chiamato appunto Fritz, e lo renderà disponibile soltanto in presenza del sistema operativo autorizzato. Quindi insomma, già a dir per sé questo fa molto pensare su come interagiranno altri sistemi operativi con questo chip. E comunque il punto è che nemmeno gli utenti, nemmeno i possessori legittimi di quel computer saranno messi a disposizione di questa chiave, una chiave che permetterà appunto di chiudere e di crittografare l'hard disk, e che in teoria, in un certo senso, potrebbe impedire la lettura dei vostri dati a qualcuno che vi rubasse l'hard disk o lo provasse a mettere su un altro computer. Quindi insomma, anche questo, in caso che voi cambiate computer, potrebbe insomma resta molto vago le vostre possibilità. La cosa buffa è che questa sicurezza preoccupa non tanto gli utenti, ancora non si sono organizzati, ma preoccupa più che altro la polizia, in particolare la polizia del Regno Unito, che si è dichiarata preoccupata da non poter più accedere ai dati conservati negli hard disk di persone che vengono indagate, e il governo britannico è in trattativa con Microsoft per risolvere questo problema. Sostanzialmente cosa vuol dire? Che probabilmente la polizia potrà accedere al vostro computer, mentre invece voi non sarete a disposizione di questa chiave. Una situazione veramente paradossale. Una situazione paradossale che poi si può portare a degli inconvenienti notevoli, appunto come quello del dell'impossibilità di accedere ai propri dati per un guasto hardware, ad esempio vi si guasta la scheda madre del computer, cosa non rara, e voi non potete più accedere al contenuto del vostro disk benché questo sia completamente sano. C'è da pensare che fioriranno anche le aziende, in particolare quelle aderenti all'agenzia, la TGC, la Trusted Computing Group, il consorzio che ha stilato questo protocollo, questo progetto del prima Palladium e poi Fritz. Fioriranno soprattutto gli aderenti che, ovviamente, avendo le chiavi di accesso a questi hard disk, potranno poi vendere costosi servizi di consulenza e cosiddetto recupero dati, quando queste operazioni oggi sono banali e sufficiente spostare l'hard disk su una macchina funzionante e questo ritorna ad andare senza problemi. È uno dei tanti paradossi delle tecnologie DRM, di cui Fritz è fondamentalmente la tecnologia di punta, quella sicuramente più invasiva, perché andrà ad inserirsi nel personal computer, che ormai da 20 anni, quando esiste il progetto X86, è sempre stato un progetto piuttosto aperto come tipologia di approccio rispetto, non so, ai progetti di Apple con la Texas e poi con la Motorola. No, uno stacco musicale, passiamo adesso ad ascoltare un brano da... Allora, andiamo ad ascoltare sempre da Yamendo, visto che ci offre un sacco di possibilità. Allora, andiamo ad ascoltare Paul B and Binary Mind. Grazie per i biscotti. Dall'album Thanks for Biscuits. Fanno dub elettronica, in particolare ci scegliamo Orange Dub. What the hell? Oh, we got a call. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a occuparci, se ho capito bene, dei global rankings, degli awards che sono stati dati ai marchi che hanno più cambiato la vostra vita negli ultimi periodi. È stata stilata una speciale classifica che risente un po' sicuramente il fatto di essere stata stilata via online, e infatti il vincitore è Google, ovvero il marchio più importante del 2005, giusto Alessandro? Sì. Ok, io no, nel senso, la classifica è molto particolare perché nei primi tre posti ci sono dei prodotti che sono legati al mondo dei computer: Google, Apple e Skype. E poi si collegano al quarto e al quinto posto la Starbucks e l'IKEA, che non sono legati ai computer, ma poi tornano immediatamente subito sotto cose legate alle nuove tecnologie. Al sesto posto Nokia, Yahoo settimo, Firefox all'ottavo posto, eBay al nono, al decimo Sony e poi via dicendo. Però noi volevamo parlare di questo non tanto per pubblicizzare queste aziende, ma per annunciare quale sarà il vincitore dell'anno prossimo. Ovvero... No, vabbè, allora era per introdurre un ragionamento sui marchi. Allora, il discorso, cioè, innanzitutto, perché si parla di marchi in una trasmissione di informatica e comunque di, cioè, legata al... tutt'al più alla questione sui diritti della proprietà intellettuale e della libera diffusione dei saperi, perché i marchi non sono altro che almeno nella lettura che ne è stata data all'interno del progetto Serpicanaro, che la fusione di produzione ideologica, ovvero tutto ciò che è legato alla produzione di marketing, alla produzione di consenso, alla condivisione, e che si lega però alla produzione industriale, quindi che poi viene riciclato tutto questo produrre immaginario, viene riciclato poi a livello industriale per vendere qualcosa, e alla fine il risultato è che quello che viene venduto in realtà assume valore in quanto portatore del marchio e non in quanto prodotto materiale. E questa, diciamo, è un'analisi che riguarda il mercato post-fordista nel senso generale. Era interessante vedere, siccome è una notizia di questi giorni, appunto questo Global Ranking 2005 sui marchi, e gli intervistati rispondevano alla domanda: qual è il marchio che ti ha cambiato di più, che più ha inciso sulla tua vita quest'anno? Allora, è interessante vedere come il marchio che a livello globale ha raggiunto circa il 40% delle risposte è stato Google. Google è un'azienda che non produce assolutamente nulla, nel senso che è un servizio gratuito, fondamentalmente è un servizio quello che viene chiamato il suo core business, diciamo, nella sua funzione primaria fornisce servizi di ricerca. Quindi è paradossale che il marchio comunque più diffuso, quello che ha più inciso sulla vita, almeno stando agli intervistati, a livello globale, è proprio Google. È interessante anche capire che tra l'altro nei primi tre da tre anni, ed è nei primi cinque da quando è iniziato presso questa classifica, cioè nel 2001. Esatto. Interessante anche vedere che a livello globale Google e Apple raggiungono da soli circa il 75% delle risposte, dando un netto distacco. Per esempio il terzo è Skype, che è circa il 15%, quindi è nettamente più sopra. Erano possibili risposte multiple comunque? Erano possibili risposte multiple, questo addirittura... mette ancora più in evidenza questa cosa, nel senso che se Google poteva essere forse quello più conosciuto, quello più usato, ci si aspetterebbe comunque una cosa un po' più omogenea, invece c'è proprio questo scarto. E è evidente come gli strumenti, o comunque i marchi legati a produzione molto ideologica, come anche la Apple, al di là della questione informatica, cioè la Apple è innanzitutto una questione di design o di tecnofighetti, se volete chiamarli così, questi marchi che puntano molto alla loro immagine hanno poi un effettivo riscontro sulla popolazione, quindi c'è un'effettiva presa, un effettivo riconoscimento del marchio all'interno della vita delle persone. Il progetto Serpicanaro, con l'uscita di quest'anno, sì, domani ci sarà la conferenza stampa con la presentazione dell'effettivo testo della licenza, comunque si propone di produrre un marchio, appunto, vabbè, in questo caso il marchio Serpicanaro, per la formula è liberare il marchio, ovvero gli obiettivi sono due: fornire uno strumento con il quale possono essere siglate produzioni artigianali o industriali che ne identificano un certo tipo di filiera produttiva, ovvero che, non so, per cui la filiera produttiva garantisca certe garanzie per i lavoratori, stabilite certo alcuni parametri. Sicuramente questa è una delle parti su cui bisognerà lavorare di più nelle successive release della licenza. Quindi, diciamo, da questo punto di vista un approccio molto simile a quello del fair trade, del commercio ecosolidale, tanto per dirci, solo che non è pensata per il mercato, cioè, diciamo, per la produzione terzomondista, ma per la produzione anche nei paesi, e anzi soprattutto nei paesi del nord del mondo. Comunque va a toccare tutta una serie di garanzie, di diritti che devono essere validi ovunque. La seconda parte della licenza, invece, quella che riguarda, o comunque un secondo punto su cui inciderà la licenza, è la questione, appunto, della produzione intellettuale. Il marchio, nato a livello economico per la difesa dell'interesse privato, ovvero per contraddistinguere le aziende, la loro qualità, i loro prodotti, viene qui utilizzato per garantire che tutto ciò che viene prodotto a livello di produzione ideale, quindi progettazione, invenzione, eccetera, sia poi condiviso. Quindi sostanzialmente è una combinazione con le licenze free di vario tipo, che possono essere, vabbè, per il software la GPL, per la musica le Creative Commons, insomma lo stesso principio applicato però alla produzione industriale. Quindi chi produce qualcosa siglato con questo marchio dovrà poi condividerne i progetti, i disegni, i modelli, tutto quello che riguarda poi la progettazione. E questo, diciamo, è l'obiettivo. Viene definito meta brand, ovvero meta mare, il brand sinonimo di marchio, perché come una forma di evoluzione del marchio, ed è lo stesso tentativo che è stato portato, appunto, dalla GPL nel mondo del software, nelle CC nel mondo della musica, della produzione artistica in generale, e di portare questo tipo di approccio anche all'interno della produzione industriale e artigianale. E questo, vabbè, poi domani ci sarà la conferenza stampa e sicuramente se ne parlerà un po'. Torneremo a parlarne sicuramente. Ecco, mi sembra che siamo un po' in ritardo, e quindi noi volevamo in realtà offrire anche abbiamo iniziato tardi, inutile che guardi quanto tempo ci abbiamo messo, però effettivamente abbiamo iniziato un po' in ritardo. Noi volevamo ancora segnalare una cosa che non c'entra molto, assolutamente niente, anzi, con quello di cui stavamo parlando adesso, ma che era una questione di privacy, ovvero, vabbè, come avevamo detto già l'anno scorso, quando voi navigate su internet resta sempre delle tracce del vostro luogo di provenienza, e questo a volte potrebbe creare delle grane, perché è possibile risalire a chi ha fatto qualcosa. Ovviamente non dappertutto accade, per esempio Indymedia garantisce che non si possa risalire a chi pubblica un messaggio su Indymedia, perché non vengono conservati i log, ma la legge impone ai gestori dei siti internet di conservare invece l'indirizzo IP da cui poi è possibile risalire a chi ha navigato su un tale sito in un determinato momento. Esistono dei modi per tutelarsi da questo. L'anno scorso avevamo parlato un po' di Tor, e adesso volevamo segnalarvi, ma poi forse vedremo se è il caso di tornarci la settimana prossima, un miscuglio particolare di programmi che si chiama Tor Pass, Spark, che è possibile salvare su una chiavetta USB e che senza necessità di installazione, senza necessità di configurazioni particolari per un uso, diciamo così, normale, del tipo voi state usando il vostro computer, non siete dietro un firewall, ma anche se siete dietro un firewall con qualche modifica ai file di configurazione, voi vi salvate questo pacchetto, ripeto, Tor Park, che si trova su torpark.com, ed è possibile con questo inserire una chiave USB nel vostro computer e da lì navigare anonimamente. Magari vedremo di parlarne con qualche dettaglio in più rispetto a alcune configurazioni particolari, per esempio se siete dietro un firewall conviene leggere le spiegazioni e non dovrebbe essere troppo difficile da superare. No, non è troppo difficile, vabbè, non c'è bisogno di installarlo su una chiavetta, nel senso potete anche solo metterlo sul desktop, nel senso non ha bisogno di installazione, era questo il contenuto. E aprite questo programma, praticamente è un mix e da solo si connette alla rete Tor e vi consente la navigazione anonima. C'è il è in italiano, anche se è una versione un po' più vecchia. Per quanto riguarda il manuale, i due o tre parametri che si possono inserire appunto per scavalcare i firewall, non è troppo difficile. Ad esempio, potrebbe essere utile per attraversare i firewall aziendali, se per esempio siete lavorati in una ditta, come spesso accade, che vi impedisce la navigazione internet, oppure peggio ancora ve la lascia fare ma vi traccia i siti visitati, pratica che, da come avevamo detto settimana scorsa, è stata dichiarata illegale dal garante della privacy. Comunque vabbè, se per caso questo dovesse avvenire o vi trovate all'estero o negli Stati Uniti, dove addirittura questa pratica è consigliata come buona pratica agli amministratori, anche questa notizia di questa settimana, questo è un pacchetto che risolve il problema alla radice e impedisce qualsiasi tipo di tracciabilità. E con questo chiudiamo la trasmissione. Chiudiamo? Perché c'è gente che scalpita per avere il suo spazio. Giustamente. Ricordiamo il nostro sito, che è spazio.circolab.net oppure radio.circolab.net, e l'indirizzo email, che è radio@numerica.org. E un saluto quindi dai Ciattoni nello spazio, appuntamento a mercoledì prossimo alle 12.40 circa, magari con qualche istante di ritardo come oggi, è possibile.